e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, bentrovati a Cuore e Denari. Partiamo subito con qualche numero. E che numeri? Oltre 10.000 iscritti, 160 brand presenti, 120 conferenze in programma, un esercito di circa 300 relatori nazionali ed internazionali. Ai nastri di partenza il Salone del Risparmio, una manifestazione davvero importante, quindi non potevamo mancare noi di Cuore e Denari per raccontarvela e per anticiparvela. Ci saremo con tre puntate in diretta, una per ciascun giorno di salone, 6, 7 e 8 aprile. Stiamo già preparando per voi un menù ricco con tantissimi ospiti interessanti per il cuore e per i denari, perché come scopriamo insieme ogni giorno e anche ogni anno in occasione del salone, i ragionamenti che partono dalle scelte di risparmio attraversano anche tantissimi altri aspetti della nostra vita. Su alcuni di questi aspetti vi abbiamo già stuzzicato su un sondaggio che abbiamo pubblicato su Twitter, andatelo a vedere, rispondete, quindi in questo modo stamattina vi coinvolgiamo con il nostro programma. Dunque, nella prima parte della puntata vi presentiamo l'edizione 2016 del Salone. E supercalifragilisticespiralidoso, anche se ti sembra supercalifragilisticespiralidoso, è difficile non far inciampare la lingua, ma ci sono delle parole di uso molto più comune di questo scioglilingua che ci mettono alla prova. Otorinolaringoiatria, ad esempio. Provate a ripeterla per 5-6 volte di fila e vi accorgerete che è abbastanza difficile non sbagliare. Gli stessi otorini ne sono consapevoli e, facendo, come si dice, di necessità virtù, hanno scelto come slogan della seconda giornata di prevenzione della diagnosi precoce dei tumori del cavo orale proprio: prevenire è più facile che dire otorino laringoiatria. E di prevenzione parleremo oggi nella seconda parte della trasmissione. Ci occuperemo anche della bocca e ci allargheremo anche alla gola, questo microcosmo che ci permette di parlare, respirare, deglutire alimenti, anche emozioni. E tra l'altro la gola è anche quel vizio che nessuno di noi fa fatica a confessare, ed è quel vizio che, come scriveva Goldoni nella Bottega del Caffè, non finisce mai e cresce sempre più quanto l'uomo più invecchia. Allora raccontateci il vostro peccato di gola al nostro numero verde. Se invece la vostra gola non pecca ma si lamenta, si arrossa, prude, si vela, datele un'occasione di benessere chiamandoci per avere o dare consigli per farla tornare a stare bene. Più del 40% della ricchezza finanziaria investibile degli italiani è detenuta in depositi e conti corrente, a fronte del 13% registrato negli Stati Uniti. Ciò aveva un senso in un contesto macroeconomico stabile e semplice, che consentiva buoni guadagni, poche competenze e non richiedeva assistenza professionale. Ma questo mondo è finito. Ed ora le famiglie non riescono più ad investire efficacemente. Vogliamo aiutare. Allora, do subito il benvenuto al nostro ospite di oggi per la prima parte del nostro programma. Ben ritrovato a Fabio Galli, direttore generale di Asso Gestioni, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Ce lo racconta lei lo spottino che abbiamo ascoltato? Ma è una... Se schiarisca bene la gola. è una verità che è molto importante, nel senso che per molti anni, forse per 2 o 3 generazioni, è stato facile investire. Abbiamo fatto semplicemente 2 o 3 cose semplici. Bot, mattone, poco altro. Sì, e soldi anche un pochino lasciati sul conto corrente, perché soprattutto poi negli ultimi 10 anni ci sono stati anche conti correnti remunerati. Quindi avevamo queste tre opzioni facili. In alcuni casi era un'opzione facile apparentemente, perché i rischi, per esempio, dell'investimento sia nel mattone che nel titolo di Stato non venivano percepiti, ma c'erano. Hanno dato grandi soddisfazioni, ci sono state generazioni che hanno vissuto di questi investimenti, anche egregiamente. Questo mondo è finito, è proprio finito. È finito da qualche anno, è finito almeno dal 2007-2008, e le persone incominciano a rendersene conto che non ci sono più quei rendimenti. Oltretutto quei rendimenti erano dati anche da, per esempio, una politica di bilancio pubblica completamente sbilanciata, per cui lo Stato si indebitava ogni anno di più. Questo non avviene più, quindi al di là della situazione dei tassi di interesse non possiamo immaginare di tornare a vivere solo di titoli di Stato. Questo è un presupposto importante dal quale anche quest'anno muoverà di nuovo il Salone del Risparmio, un'occasione di formazione e di informazione per gli addetti ai lavori, ma anche per i risparmiatori, per le famiglie. Allora, Radio 24 sarà presente con una serie di programmi, per tutte e tre le giornate ci sarà Cuore e Denari in diretta con tanti ospiti interessanti. Ci sono centinaia di iscritti a tutte le tavole rotonde organizzate in questi tre giorni, fra cui ricordo e anticipo che c'è anche la nostra in programma venerdì 8 aprile, si chiamerà proprio Investire informati, conoscere per gestire consapevolmente il proprio risparmio. Di cosa parleremo? Della propensione al risparmio degli italiani, sempre molto alta, ma che negli ultimi anni di crisi è stata messa in difficoltà, perché i risparmiatori hanno manifestato grande vulnerabilità, in particolare in rapporto agli intermediari finanziari ai quali si affidano. E dunque, perché avesse la curiosità di venirci a trovare, naturalmente andate a curiosare sul sito del Salone del Risparmio, trovate la conferenza e iscrivetevi. Più in generale, i temi del Salone quest'anno sono molti e significativi. Qualcuno, Fabio Galli, ce lo ha già anticipato. Risparmio al centro è il titolo portante del Salone. Demografia, liquidità, sviluppo. Cosa vuol dire? Che il risparmiatore ha davanti a sé uno scenario super sfidante. Tassi di interesse ai minimi, prospettive di ripresa economica molto grigie, evoluzione demografica, concentrazione del patrimonio in capo alle generazioni più mature. Come non perdersi, dottor Galli, in questo contesto? No, ma questo quadro sicuramente, mi piace molto la definizione sfidante, offre delle opportunità. Ovviamente opportunità vanno colte con un investimento diversificato. Cosa significa? Significa che se prima facevamo con uno strumento molto semplice, senza quasi, come dire, era un'attività quasi riflessa, oggi lo facciamo soprattutto con i fondi di investimento. Queste opportunità, oltretutto, sono sia per chi risparmia e vuole investire meglio, sia per l'economia del nostro paese, perché è evidente che ci sono molte risorse. Gli italiani hanno una capacità di risparmio elevata rispetto a tante altre popolazioni, anche di paesi avanzati. Dobbiamo investire bene e portare queste risorse verso le imprese innovative che esportano, che crescono, e le infrastrutture che generano comunque crescita. Leggevo questa mattina un pezzo sul Sole 24 Ore, adesso mi aggancio subito a questa riflessione che faceva, che ci sono molte casse previdenziali che stanno investendo in moltissime start-up del nostro paese, quindi questo è un po' il senso che lei... Ma è stato giusto anche in quel caso che il sistema di investimento della nostro, diciamo, pilastro previdenziale aggiuntivo si stia facendo dei passi avanti nel modo di investire. Quindi lo fanno sia gli investitori professionali, come possono essere i grandi fondi pensione, le casse previdenziali, sia lo devono fare le famiglie. Allora, intanto, naturalmente, anche stamattina, come facciamo ogni giorno, vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde, sempre a vostra disposizione. Vi proponiamo questo sondaggio, circola già su Twitter: che cosa vi preoccupa di più? Il pensiero di una vecchiaia in cui non avrete più un tenore di vita adeguato, o quantomeno simile a quello che avete in questo momento? Il pensiero che viviamo nell'epoca dei tassi zero e trovare un'adeguata remunerazione del proprio risparmio è difficilissimo, e questo costituisce ancora per molti risparmiatori una grande sorpresa. Ce lo continuano a raccontare anche in questo percorso che abbiamo fatto con Investire informati. Molto spesso, rispetto a questo contesto, rimangono basiti e non riescono a giustificarlo, a spiegarselo e a contestualizzarlo rispetto a quello che sta accadendo nel mondo. Terzo pensiero che può preoccupare particolarmente gli ascoltatori: quello di non trovare un buon consulente che vi accompagni nelle scelte di investimento coerenti con i vostri bisogni e quelli della vostra famiglia. Quindi quale pensiero vi preoccupa di più? O ce lo volete raccontare al numero verde, oppure scriveteci al 349-238-6666. Dottor Galli, intanto, per gli ascoltatori che magari hanno perso anche le passate edizioni del Salone del Risparmio, vorrei spiegare loro, facendo un biglietto da visita della vostra organizzazione, che cos'è Assogestioni e quante SGR rappresentate. Noi rappresentiamo tutte le società di gestione del risparmio che operano in Italia e anche quelle internazionali che comunque si affacciano sul nostro mercato. L'obiettivo di un'associazione di categoria come la nostra è quella, certamente, di fare in modo che il contesto legislativo, fiscale, favorisca la crescita della nostra industria e l'offerta del servizio, ma è un'industria un po' particolare, nel senso che ritiene che uno degli elementi necessari perché si possa crescere insieme è anche quello dell'educazione del proprio cliente. Il cliente, il nostro cliente è il risparmiatore. solo un risparmiatore consapevole farà delle scelte di investimento che lo portano a, innanzitutto, ad avere fiducia nel servizio che gli viene offerto. In secondo luogo, farà delle scelte di investimento che gli danno soddisfazione nel tempo, cioè gli daranno dei rendimenti adeguati a quello che sono stati le sue prospettive, i suoi piani. Fare educazione finanziaria ci provano in molti, lo fanno le istituzioni, lo fa ormai anche il settore privato, perché appunto ha riconosciuto l'esigenza di creare un clima di collaborazione e di comprensione reciproca. Ma non è facile, perché lo fa poco la scuola ancora. C'è un programma infatti dentro il salone che aiuta le scuole a partecipare, e abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte dei professori di scuola superiore, che capiscono che dare anche le basi di conoscenza e comprensione lo fa il Sole 24 Ore con tutto il suo progetto di informazione su ciò che è l'investimento finanziario. Tutte queste attività in alcuni casi si disperdono un po', cioè ognuno segue la propria strada, il proprio percorso. Il salone è come un'occasione che dura 3 giorni per incontrarsi tutti e avere una quantità veramente molto importante di opportunità, occasioni per informarsi, comprendere, conoscere anche persone che si occupano di questa materia, quindi per esempio avere interazione con certo. Gli operatori del settore. Era un punto che mi ero preparata per la seconda parte della trasmissione, ma direi che è il caso invece di anticiparlo subito. Voi avete deciso proprio nell'occasione di questo salone di quest'anno di chiamare a raccolta istituzioni, fondazioni, esperti internazionali per dare il via agli stati generali dell'educazione finanziaria. Ma sì, l'idea è appunto quella che dobbiamo fare un po' sistema, come tante cose in Italia si dice bisogna in qualche modo coordinarsi, perché ci sono moltissime iniziative che, se sono in qualche modo coordinate, incanalate, avranno un impatto molto maggiore. Noi vediamo, misurando quello di cui avete appena parlato, cioè quali sono le domande che vengono dai risparmiatori. Ci sono molti risparmiatori che hanno una diversa cultura, diversi gradi di preparazione, diversa anche confidenza in se stessi, fiducia in se stessi nella capacità di affrontare le decisioni. È evidente che bisogna in qualche modo offrire a ciascuno il giusto approccio all'educazione finanziaria. Quindi qual è il tipo di informazione che uno vuole ricevere, quanto vuole essere partecipe delle decisioni, quanto vuole affidarsi, quanto vuole invece essere protagonista. È giusto che ci sia questa molteplicità di approcci, è giusto che ci siano persone più autonome, persone che invece cercano molta più consulenza. In generale abbiamo visto che il sistema, investire bene richiede comunque avere a che fare con un professionista. Quindi la terza domanda che si ponevano molti dei vostri ascoltatori, scegliere un buon consulente, mi sembra che sia una domanda centrale. E le dico anche che, a giudicare da come sta andando il sondaggio che abbiamo proposto su Twitter fino a questo momento, è proprio il principale punto di preoccupazione per i nostri ascoltatori. Quindi, che cosa vi preoccupa di più? Il 31% delle persone hanno risposto ridurre il tenore di vita, quindi il pensiero di una vecchiaia in cui non si avrà un tenore di vita adeguato. Il 23% risparmio che non frutta, viviamo nell'epoca dei tassi zero e quindi trovare un adeguato remunerazione del proprio risparmio è difficilissimo e questo contesto non viene proprio compreso. Il 46% delle persone teme di essere mal consigliato, quindi c'è grande preoccupazione nel non riuscire a trovare un consulente che accompagni in maniera adeguata nelle scelte di risparmio e di investimento per sé e per la propria famiglia. Ma già avere questa preoccupazione significa avere in qualche modo un atteggiamento attivo e positivo verso la scelta, quindi è già un fattore, mi sembra, molto positivo. Vorrei dare soltanto una nota di ottimismo. Ottimo. Allora, è vero che questo è un contesto sfidante, mi sembra una definizione... Le è piaciuta proprio questa parola. Ma perché è molto giusta. Ma è anche vero che noi in alcuni casi non percepiamo le reali opportunità. Avevamo rendimenti del 5, 6, 7% con un'inflazione al 3%. Altrettanto, esatto. Oggi possiamo raggiungere con un portafoglio ben diversificato rendimenti del 2, 3, 4%, ma con un'inflazione a zero. Questo significa che sostanzialmente le nostre opportunità non sono diverse. Bisogna, diciamo, raggiungere quegli obiettivi con strumenti che sono meno immediati. Allora, intanto, lasciandoci su questa riflessione, direi che è ora di dare spazio ai suggerimenti per chi è in viaggio. A lei è piaciuto molto il concetto che le ho lanciato io di sfidante. A me è piaciuto molto invece il concetto che voi state facendo circolare sempre nell'ambito delle varie iniziative del Salone del Risparmio, della Silver Economy. E adesso racconteremo agli ascoltatori di che cosa si tratta. Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presento. Cuore e denari. La cultura e l'educazione finanziaria sono da considerare un obiettivo strategico per l'Italia. Il risparmio, infatti, rappresenta una risorsa preziosa per il bilancio delle famiglie e per il finanziamento delle imprese. Per accrescere la consapevolezza dei risparmiatori, il Salone del Risparmio ha istituito gli Stati Generali dell'Educazione Finanziaria, un punto di incontro tra addetti ai lavori, istituzioni, media, famiglie e studenti. E questo tema ce l'aveva spiegato poco fa Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, che stamattina è nostro ospite, che ci sta dando tutte le anticipazioni necessarie per farvi conoscere in anteprima i contenuti e le modalità di svolgimento del Salone 2016, del Salone del Risparmio 2016 in programma quest'anno. A partire da mercoledì prossimo, peraltro quest'anno dottor Galli si cambia sede dopo molti anni di bocconi, quest'anno si va alla vecchia Fiera di Milano. Sì, nasce un'esigenza di crescita, la partecipazione è quasi sorprendente anche per noi, è ormai un evento che è stato notato anche in tanti altri paesi europei, è un modello un po' unico perché appunto per la sua dimensione, per l'energia anche che propone. Lo spazio in fiera è uno spazio molto adatto a una partecipazione ampia, alla qualità anche del numero di conferenze, tutta una serie di eventi che sono anche, diciamo, di rafforzamento di contorno al salone. È un evento che è aperto, la terza giornata è dedicata proprio ai risparmiatori. Infatti volevo anche precisarlo anche a chi abita lontano da Milano, è un evento milanocentrico evidentemente, però in realtà per qualcuno che volesse avventurarsi nel visitare Milano in quella giornata, il salone è aperto, però bisogna iscriversi, quindi magari andare a controllare sul sito sulle modalità di accesso. Se non volete fare coda all'ingresso è meglio iscriversi prima. Sì. Perfetto. Allora, 800 24 00 24, intanto potete continuare a prenotare i vostri interventi, cioè che ci scrive che cosa li preoccupa di più. Noi abbiamo lanciato appunto questo sondaggio, il pensiero della vecchiaia, del tenore di vita, il pensiero che viviamo nell'epoca a tassi zero, la preoccupazione di non trovare un buon consulente, di essere mal consigliato da un consulente non adeguato per le proprie esigenze. Un ascoltatore scrive: mi preoccupa più di tutti l'ignoranza del risparmiatore che non capisce che i tassi zero sono compatibili con l'attuale non crescita economica europea. Galli. È vero, ma infatti noi non dovremmo vivere di investimenti appunto di reddito fisso, dovremmo vivere di investimenti nell'economia reale, quindi vuol dire che in realtà per avere un portafoglio che può rendere, le risorse, il capitale, quello che noi risparmiamo e che vogliamo impiegare deve andare in quelle aziende che hanno la capacità di crescere, di esportare, nelle infrastrutture che generano in qualche modo servizio al paese e all'economia, e quindi il nuovo capitale che affluisce deve proprio andare nella direzione di quelle parti che crescono meglio, crescono di più e che possono poi portare beneficio a tutti. Mm-hmm. Allora, avevo lanciato l'idea di parlare con lei della Silver Economy, la lascio ancora in sospeso questa tematica perché volevo continuare a leggere i messaggi degli ascoltatori. C'è questo messaggio molto interessante, credo che se Nicoletta lo ricorda, ieri ne abbiamo parlato proprio nel pomeriggio durante la nostra riunione. Noi insistiamo tanto sul fatto che le persone devono sforzarsi di più a conoscere, comprendere, apprendere quello che accade attorno a loro. In realtà notiamo che tante volte la finanza, il sistema bancario, gli intermediari finanziari non fanno sforzi altrettanto importanti per darsi un comportamento un pochino più etico rispetto al passato. Dottor Galli, non so se lei è d'accordo, e c'è un ascoltatore che ci scrive: io credo che sia necessario sempre di più parlare di etica, in altri paesi lo fanno, le persone sono più consapevoli. Lui ci racconta di investire solo in fondi etici, un mondo che sta crescendo ma anche un mondo che troverà grande spazio al Salone del Risparmio, dove si parlerà moltissimo di investimenti, per esempio, sostenibili. Sì, ci sono, è assolutamente vero, questo è una delle... Socialmente sostenibili. A proposito di sfide, questo è sicuramente uno di quei temi che andranno a caratterizzare gli investimenti nei prossimi 10, 20 e 30 anni. Significa, ci sono tanti filoni di questa idea molto ampia che è l'idea dell'investimento, chiamiamolo etico, con un termine più tecnico socialmente responsabile, cioè consapevole degli effetti che si hanno sul mondo, sulle persone, sugli altri, a partire per esempio da una tematica centrale che è quello del cambio climatico. Il cambio climatico, che per tanti anni è stato un po' un concetto, diciamo, di tipo accademico astruso, oggi un po' lo tocchiamo con mano, capiamo che c'è effettivamente la sensazione che ci sia un cambiamento del tempo. Questo ha degli effetti economici importantissimi, E bisogna sapere bene quali sono gli effetti dell'attività economica, quindi dove gli investimenti vengono indirizzati, che cosa significa in termini di cambio climatico. Non solo, certamente tutta la responsabilità sociale nei confronti della produzione, per esempio, di energia, come avviene questa produzione di energia, il trasporto dell'energia nel rispetto dell'ambiente, quindi sempre temi di tipo ambientale, ma temi anche di tipo sociale, nel senso qual è l'effetto degli investimenti e dell'attività economica sulle popolazioni locali. Quindi tutte queste tematiche ci sono, c'è un percorso molto sviluppato al Salone, proprio perché ci sono molte società di gestione che hanno consapevolezza di questo, che vogliono discuterne, ci saranno dei... io li chiamo guru, sono delle persone che hanno pensato a lungo a quali sono, esatto, gli impatti di lungo termine di questi effetti e del perché non lo si fa perché si è, tra virgolette, buoni, lo si fa perché si è intelligenti. Cioè investire in questo modo, ragionare di queste tematiche, lo fa l'investitore intelligente, non lo fa soltanto l'investitore che ha una natura, diciamo... buona. Allora, intanto noi siamo pronti con i nostri primi ascoltatori che vogliono interagire con noi e esporci le loro considerazioni sul tema molto ampio di questa mattina, mi rendo conto, perché vorremmo trattare tutti i temi che verranno trattati al Salone del Risparmio, ma dobbiamo per forza di cose circoscrivere un po' gli argomenti. Sentiamo un po' come la pensa Silvio da Cuneo. Silvio, intanto le chiedo subito, cosa la preoccupa di più quando lei pensa al suo risparmio e a quello che lei custodisce con molta attenzione per sé e per la propria famiglia? Ma prima di tutto buongiorno a tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, ha ragione. Prima allora, cosa un po' di cortesia e di saluti. Ci mancherebbe. Il mio ragionamento, riassumerei tutti questi tre argomenti in una sola cosa. Si sta creando una società in cui i ricchi sono sempre più ricchi, il ceto medio sta scomparendo e i poveri sono sempre più poveri. Porto un esempio banale, pronto. Quello che 100 ricchi acquistano un'automobile da 150.000 euro. 1 milione di ceto medio acquista una macchina da 25.000 euro. Chi è che porta più valore aggiunto alla società? Ma purtroppo tutta questa paura che ci sta attanagliando e questo impoverimento del ceto medio porta non più questa milione di persone ad acquistare questa macchina da 25.000 euro. A questo punto la società per forza finisce a catafascio. Speriamo di no, Silvio, di non avere uno scenario così catastrofico. Sono un agente di commercio e ho il polso del mercato decisamente in modo importante. Certo. No, e vedo proprio questo impoverimento generale. È questo che ci deve essere un forte intervento, secondo me, da parte del governo, da parte delle banche, in aiuto. Perché se questo aiuto viene dato, le persone riacquistano fiducia, iniziano di nuovo a spendere soldi e a risparmiare. Silvio, la ringrazio. Allora, il tema che pone Silvio è, come dire, ha diverse sfaccettature. Il tema della concentrazione della ricchezza viene affrontato molto spesso da tanti osservatori, lo conosciamo, chi è ricco diventa sempre più ricco e questa crisi degli ultimi 10 anni ha incrementato ulteriormente la ricchezza in capo a determinate teste, famiglie, imprenditori e quant'altro. Il tema del ceto medio che sta scomparendo, quantomeno sta ridimensionando molto la propria capacità di acquisto e la propria propensione al risparmio. Galli, che tipo di ripercussione ha questo nuovo scenario sociale così dirompente anche sulle scelte di investimento individuali? Ma intanto noi vediamo comunque una società italiana che ancora risparmia in maniera importante ed è un risparmio diffuso. Ci sono circa 10... Si consuma meno perché si continua a risparmiare, cioè diciamo che E c'è anche un aspetto che veniva ricordato tra i grandi temi di questo salone, l'aspetto demografico. Esatto. Nel senso che questa è una tendenza in realtà di tutti i paesi avanzati, ma non solo, quello di vedere una concentrazione della ricchezza nelle mani della popolazione più age, ma è naturale che sia così, ha avuto l'opportunità di un'intera vita professionale per accumulare. E questa è la silver economy, giusto? La silver economy è questa. L'economia d'argento, dei capelli allora, d'argento. È un tema molto interessante perché la teoria economica dice che una persona che ha accumulato e arriva a 65 anni inizia a decumulare, cioè a spendere un po' quei soldi che ha messo da parte per vivere meglio, per avere un tenore di vita Questo in realtà non avviene molto, cioè i soldi che sono stati accumulati tendono a essere anche tenuti per passarli alle generazioni, ad essere trasferiti. Trasferiti. Il problema è che questo trasferimento, come avviene questo trasferimento, con che tempi, quando, è una cosa di cui parlare, perché è chiaro che chi ha bisogno di investire e di spendere sono soprattutto i giovani, quindi le famiglie giovani, esatto, che fanno i bambini, che hanno... E quindi questo ceto passaggio... medio che un po' si è impoverito, che perde il lavoro oggi. Guardi, un tema talmente bello che lo voglio affrontare per bene dopo il giornale radio, a tra poco. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Molti investitori e retail non considerano utile affidarsi ad un consulente finanziario e la consulenza formato MiFID è ancora destinata a un numero ridotto di famiglie. Il ruolo della distribuzione è sempre più centrale ed è per questo che il Salone del Risparmio si interroga sulle sue evoluzioni, valorizzando anche le competenze degli operatori con momenti di formazione certificata. Quello che avete ascoltato, uno dei tanti spottini che accompagneranno e che stanno accompagnando i temi portanti dell'edizione 2016 del Salone di Risparmio. Si parte mercoledì prossimo, tre giornate molto intense per la città di Milano, ma naturalmente tutti coloro che sono in ascolto questa mattina, se avranno la voglia di farlo, potranno raggiungere appunto il capoluogo lombardo per partecipare a questo evento. La giornata di apertura al pubblico indistinto è quella di venerdì 8 aprile, ma Nicoletta, c'era una domanda. Angela ci ha scritto su WhatsApp: sono iscritta al salone, vorrei partecipare ad alcuni interventi giovedì 7. Il sito dice che sono riservati ad operatori di settori, ma potrò partecipare come risparmiatrice oppure no? Ma in alcuni casi ci sono delle conferenze che per la natura tecnica sono state effettivamente riservate agli addetti ai lavori. Mi rendo conto che giustamente chi ha curiosità è attratto, esatto, in alcuni visto casi. Visto che insistiamo, formatevi, preparatevi, documentatevi, educazione finanziaria, poi loro vogliono venire e non li facciamo venire. No, immagino che si tratti di una risparmiatrice molto avanzata, perché le conferenze che sono riservate sono conferenze che hanno a volte già dal titolo, come dire, una certa difficoltà. Molto tecniche. Facciamo però una prova. Come si chiama l'ascoltatrice? Angela. Angela, ci scriva a cuoredenari@radio24.it. Le facciamo un test. Vediamo. No, la facciamo entrare, perché noi conosciamo le società che comunque, certo, esatto, e poi magari riusciamo a farla entrare ugualmente. Allora torniamo con Fabio Galli, direttore generale di Assogestione, che è l'organizzazione appunto che naturalmente si fa l'organizzazione appunto che promuove tutta l'organizzazione dell'evento. Riparliamo dei capisaldi come temi del salone di quest'anno. Allora, prima abbiamo fatto un ragionamento sul tema della demografia, ricordando come oggi la ricchezza delle famiglie sia detenuta principalmente da risparmiatori senior, che hanno quindi tra i 60 e i 70 anni, ma nell'arco dei prossimi 15-20 anni 65% si calcola della ricchezza finanziaria passerà nelle mani dei millennials, gli under 35 di oggi. Beh, è un processo, è un tema, come veramente dire, bello. È un processo naturale. E tra l'altro, una delle cose più interessanti è vedere la partecipazione al salone di genitori con i figli. Ovviamente non stiamo parlando di figli bambini, stiamo parlando di figli anche un po' cresciuti, ma c'è la consapevolezza che uno dei proprio delle forme di educazione che si devono passare oggi è il modo di guardare i propri risparmi, al patrimonio di famiglia, a come si gestisce, come si investe, e quindi diciamo che è una delle grandi responsabilità della generazione che oggi ha questo patrimonio accumulato, anche perché ha vissuto, è una generazione diciamo del dopoguerra, che ha vissuto anni molto buoni per l'accumulo boom economico. E quindi che dispone di queste risorse. È bello che ci sia questa trasmissione, nel senso passaggio generazionale di queste risorse, ma deve essere fatto non semplicemente lasciando, quindi lasciandole un bene, ma spiegando anche quella che è stata la propria esperienza, quali sono stati gli errori fatti, quali sono state le opportunità. E quindi diciamo che questa è una delle grandi sfide anche dell'industria, perché ovviamente i consulenti, il consulente migliore è anche quello che accompagna questo passaggio generazionale. E quindi è importante che l'industria del risparmio gestito, sappia parlare ad entrambe le categorie di questi risparmiatori. Abbiamo pronta Simonetta da Modena. Ricordo che abbiamo lanciato un sondaggio chiedendo ai nostri ascoltatori cosa vi preoccupa di più: il pensiero di una vecchiaia in cui non si avrà un tenore di vita adeguato, il pensiero che viviamo nell'epoca dei tassi zero e trovare un'adeguata remunerazione del proprio risparmio è difficilissimo, la preoccupazione di non essere ben consigliati da un consulente adeguato. 800 24 00 24, il numero verde per partecipare se volete al nostro sondaggio, per raccontarci come la pensate e condividere con noi le vostre preoccupazioni. Dobbiamo parlare anche degli altri due temi che sono al centro del titolo di questa edizione del Salone, cioè la parola liquidità e il tema sviluppo, ma vorrei sentire prima Simonetta da Modena, che punta i riflettori su un altro tema molto interessante, molto caldo e assolutamente pertinente. Simonetta, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Perché sono veramente preoccupata per i miei risparmi, perché comunque ho cercato di diversificare in questi anni, sono sempre cercato di stare attenta, eccetera. Alla luce degli ultimi fatti, cioè è stato fatto creato questo database, questo fisco grande fratello, e adesso non voglio entrare nel merito perché comunque ci vorrebbe un sacco di tempo. Quello che voglio sottolineare io è dire: bene, io mi metto lì, faccio un investimento, cerco di mantenere, diciamo, quello che ho acquisito nel corso della mia vita, cercando di risparmiare per pensare al peggio, al futuro, perché magari mi può aspettare la malattia e quant'altro. Giustamente. Dello Stato non esiste. Io dico, ma chi è che, cioè, voi ci consigliateci un modo per difenderci dai controllori, nel senso, quelli che ci controllano, chi li controlla? Ma Simonetta, si riferisce, non lo so, ai vari strumenti del recente passato, redditometro, spesometro, di che cosa? Perché vedevo delle anticipazioni che lei ha rilasciato al nostro centralino, che voleva parlare del tema fisco, tema fiscale, quindi io pensavo fosse preoccupata anche dall'inasprimento fiscale che è intervenuto su molte forme di risparmio negli ultimi anni, tema calzante direi anche. Quindi non capisco esattamente, redditometro, chi dovrebbe controllare i suoi risparmi? Questa è la mia domanda. Simonetta, dottor Galli, adesso io non so che cosa esattamente, no, infatti mi dicono che forse non ci eravamo capiti con l'ascoltatrice. Allora, vabbè, diciamo che sì, effettivamente con il funzionamento del redditometro negli ultimi anni c'è in teoria la possibilità che il fisco ti venga a controllare se miracolosamente compaiono ad un certo punto delle somme strabilianti sul tuo conto corrente, non giustificate magari da trasferimenti di denaro comprensivi. Detto questo, non è questo un tema che dovrebbe preoccupare i nostri ascoltatori. No, infatti i nostri investimenti, il sistema italiano di tassazione, poi possiamo discutere se oggi essere tassati al 27% sull'investimento azionario, al 12,50% sui titoli di Stato sia giusto o sbagliato. Esatto. Ci sono molte opportunità per avere grossi incentivi fiscali. Quello principale sicuramente è quello previdenziale. Fondo pensione. Pensate, io oggi è poco più del 20% degli italiani hanno una forma di previdenza integrativa, si chiama, cioè una pensione che uno si costruisce autonomamente o sul proprio posto di lavoro o come libero professionista. Non si percepisce il fortissimo sconto fiscale che c'è su un fondo pensione, sia che voi abbiate un fondo pensione negoziale, sia che voi abbiate una pensione di tipo fondo aperto, una pensione privata. Il vantaggio fiscale è molto molto forte. Tutto il TFR più 5.165 euro all'anno vengono portati in esenzione, la tassazione di favore al 20%, ma si riduce ulteriormente se si fanno un certo tipo di investimenti in strumenti di lungo termine, e soprattutto quando si percepisce quella pensione si è tassati solo al 9% se siete rimasti investiti per un certo numero di anni. È una tassazione di estremo favore. Io oggi il mio reddito è tassato a più del 40%, la mia pensione, quel pezzo che sono riuscito a accumulare, sarà tassata al 9%. dobbiamo avere un po' di fiducia nel fatto che lo Stato italiano mantenga questa promessa. Questa perché qualche rimodulazione l'ha fatta anche sui fondi pensione. Ma non mai a svantaggio, nel senso il cambiamento avviene sempre per il futuro. Quello che è il passato è stato salvaguardato, da questo punto di vista i principi costituzionali sono chiari, quindi non è vero che noi siamo abbandonati a noi stessi, perché altrimenti passa il messaggio che siamo un po' in una terra di nessuno in cui tutto può accadere. Non è così. Avere un buon risparmio previdenziale è una cosa saggia, è una cosa soprattutto di grande vantaggio fiscale. Quindi chi non l'avesse fatto per una serie di ragioni, compreso tenere il proprio TFR in azienda, ci ragioni, perché il vantaggio fiscale è molto forte. Probabilmente anche noi dovremmo insistere un po' di più su questi punti. Dottor Galli, la parola liquidità è diventata, negli ultimi, magari quella anche che ci serve un po' per, come dire, mettere la gola a posto, e ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, è diventata negli ultimi anni a noi estremamente familiare. Ci riferiamo quasi sempre a quella che le banche centrali hanno garantito al sistema finanziario globale, ma forse voi al Salone del Risparmio ne parlerete in termini anche un pochino diversi. No, noi sicuramente oggi, dato il contesto, appunto, c'è un grandissimo cambiamento. Noi sostanzialmente abbiamo tenuto, i nostri genitori, i nostri nonni hanno tenuto i soldi su un conto corrente, la banca ci garantiva quel tasso di interesse, più o meno buono, dipendeva dalle condizioni, e poi la banca andava a prestare i soldi e correva un rischio improprio nel prestare i soldi. Oggi questo sistema un po' sta cambiando, cioè non ci sarà più questa intermediazione, cioè non ci sarà una banca che si mette tra noi e l'investimento, ma saremo noi che dovremo in qualche modo andare a investire direttamente. Se lo vogliamo far da soli, ci possiamo comprare l'obbligazione di Eni, Enel, di uno stato estero, dello stato italiano. Se lo vogliamo fare attraverso un fondo, che è il modo migliore, perché un fondo compra centinaia se non migliaia di titoli diversi, quindi non c'è mai un fondo che fallisce. Ci sono andamenti di mercato. Può perdere quando il mercato va molto male, naturalmente, però in genere si risale anche. Ma non c'è l'effetto, tra virgolette, fallimento, perché ho messo tutte le uova in quel paniere. Ora, questo investimento diretto può portare a delle grandi opportunità, perché oggi ci sono aziende che vanno molto bene. E tra l'altro il sistema di investimento attraverso i fondi fa investire sicuramente laddove in Italia le cose funzionano, ma fa investire in tutto il mondo. Nel senso che noi possiamo cogliere le opportunità di una brillante azienda di biotech in Canada, piuttosto che un'azienda che sta facendo qualcosa di molto buono nei trasporti in India. L'importante è farlo, siccome andare a investire in Canada e in India non è un bisogna analizzare, ci si deve andare, la cosa migliore è farlo con un veicolo, sì. Naturalmente adesso ci cominceranno di nuovo ad accusare che siamo la radio sponsor del sistema del risparmio gestito. Io vi dico che naturalmente credo un po' di più in uno strumento di investimento come questo rispetto ad uno strumento unico come l'obbligazione bancaria, che ovviamente porta un piccolo risparmiatore a concentrare tutto il suo risparmio in un unico uovo di quel paniere, di quel perché c'è solo quello, esatto, dentro al paniere, per cui poi succedono le sorprese che abbiamo visto negli ultimi anni. Quella è una grande lezione che abbiamo appreso. Poi magari il fondo di investimento non rende, in certi periodi perde, bisogna avere pazienza, bisogna stare lì per un po' di anni, però insomma con il risparmio non ci si gioca, non si deve investire e risparmiare con l'obiettivo di andare ossessivamente a controllare quello che succede ogni mese. Come tutto purtroppo nella vita è questione di disciplina. Quindi così come non scommettiamo e abbiamo invece comportamenti, se abbiamo comportamenti regolari, credo in ambito di tutela della nostra salute, cioè se sappiamo quali sono certe regole di base e se abbiamo la stessa questione della regola di base, le applichiamo nell'ambito degli investimenti, certamente noi non avremo risultati domani e nemmeno tra 3 mesi, ma abbiamo risultati tra 20 anni, quando ci sono. Da quello che so, i miracoli non li fa nessuno, li faceva solo un personaggio tantissimi anni fa. Direi che quindi non possiamo attenderci qualcuno replichi quel comportamento. Grazie a Fabio Galli per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, vi aspettiamo numerosi, esatto. E grazie mille per tutto, anche la vostra partecipazione, esatto, con le conferenze. La ribadisco, sarà quella di venerdì 8 aprile con la conferenza a partire dalle 13:30, investire informati, conoscere per investire consapevolmente. Segnalo anche quella che faranno i colleghi di Plus 24 la mattina dell'8 aprile, dal titolo Risparmio, palla al centro, gestori e previdenza integrativa, un gioco di squadra all'epoca dei tassi zero. Ho una cura perfetta per una gola arrossata. Tagliarla. Hitchcock. Salvate la vostra gola, lanciate un SOS al nostro numero verde 800 24 0024 e affidatevi al nostro esperto. È tornato a trovarci il dottor Andrea Franzetti, responsabile dell'unità operativa di Otorino Laringoiatria al Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottor Franzetti, salverà le nostre gole o sta affilando la lama? No, diciamo che oggi come oggi si cerca di tagliare il meno possibile, ma di curare il più possibile, e abbiamo tutti i mezzi per farlo. Dottor Franzetti, noi parleremo di gola e parleremo anche di cavo orale, quindi due stanze attigue, e ci allargheremo anche al naso, insomma è un trilocale che ha dei rapporti molto stretti. Assolutamente sì, perché è un bel crocevia, è un crocevia dove passa di tutto, diciamo cose funzionali per il nostro organismo importantissime, ma anche tantissimi sensi che ci permettono di sperimentare un benessere importante. E allora iniziamo dalla gola, perché basta un mal di gola. Ho visto che sono già arrivate delle chiamate all'800 24 0024, segno che ci sono problemi, ci dà qualche problema la gola, e basta infatti che si arrossi, che inizi a bruciare, per capire quante funzioni svolge questo organo, che fa parte dell'apparato respiratorio ma anche di quello digestivo, e forse sarà tutto anche per questo che quando va in tilt tutto prende un altro sapore, senza contare che la gola è anche, e questa mi piace molto, l'unica parte del corpo che richiama un vizio, ma un vizio accettato, che si lascia confessare. Assieme alla lussuria, la gola è il vizio più confessabile. Nessuno si vanterà pubblicamente di essere invidioso, avaro, tracotante, iracondo, negligente, ma nessuno si vergognerà di dire che va matto per le profiterol. Cesare Marchi. Allora chiamateci se andate matte per i profiterol, ma anche per confessarci il vostro peccato di gola, e chiamateci anche se la vostra gola si lamenta. Il dottor Franzetti è pronto per darci delle indicazioni e anche delle spiegazioni. Seguiteci nel nostro viaggio, in cui parleremo, come vi ho anticipato, anche di cavo orale. Oggi è la seconda giornata nazionale della prevenzione per la diagnosi precoce del tumore del cavo orale, ma parleremo naturalmente anche di naso. Dottor Franzetti, la gola ci manda dei messaggi, ci racconta il suo malessere, lo fa in modo diverso a seconda della zona in cui è colpita al disagio. A volte basta la parola, no? Per localizzare un po' l'origine del problema. E io credo che se i nostri amici ci chiamano e parlano, ci raccontano qualcosa, lei potrebbe capire come sta la loro gola e anche, mi allargo, lo stato di salute delle loro corde vocali. Quindi noi mettiamo il nostro numero verde a disposizione. Lei di quale altra informazione ha bisogno per fare una sorta di test di valutazione? Ma a parte la cosa più banale, che come parliamo, cioè come formuliamo la voce, anche la sensazione che possiamo avere, perché può essere dolore, può essere una fitta, può essere un bruciore, può essere una sensazione, diciamo così, di gonfiore. Ci sono tante le sensazioni. Il corpo è strano, il far fatica a deglutire. Perché sono tutti dei campanelli di allarme, non sono delle vere e proprie malattie, però sono campanelli d'allarme che vanno considerati. Che vanno considerati con il loro giusto peso, magari senza ingigantirli subito, senza dare subito il cosiddetto antibiotico, che spesso viene dato troppo prematuramente, ma vanno considerati perché ci indicano che c'è qualcosa che sta succedendo o nella zona di questo crocevia oppure in qualche altra parte del nostro organismo. Perché anche malattie come le disvitaminosi, come disturbi gastrointestinali o disturbi digestivi possono in un certo senso manifestarsi con dei disturbi della gola. Andiamo a Davis, che ci chiama dalla provincia di Rimini, e poi abbiamo Antonio da Genova. Buongiorno Davis, benvenuto. Buongiorno. Vi volevo subito dire, vi faccio i complimenti perché vi ascolto tutte le mattine, streaming ovviamente dal lavoro, siete bravissime, bellissime anche, complimenti. Grazie, si allarghi pure Davis, venga a trovarci. Sì, come dargli torto. Buon gustaio. Senta. Allora io chiamo da Riccione, allora aspettavo che si trasmette questa puntata, perché il mio problema è, sono già stato dall'ottorino un paio d'anni, niente di grave, nel senso che mi hanno diagnosticato una cordite, che ancora non ho capito bene neanche cos'è, perché fatica da capire il discorso. Io non sono un fumatore e sono astemio, però siccome c'è uno che parla tutto il giorno di continuo, ogni volta che parlo o che magari sforzo la voce, io sento per un po' di giorni sto gonfiore un po' tipo i muscoli, che fa male a gola, sento un po' di fastidio, mal di gola mi dà un sacco. Quindi è causa della cordite o mi devo preoccupare, devo fare un'altra visita? Allora, innanzitutto ha fatto bene a chiamarci e a seguirci tutti i giorni. Già un po' è passato questa cordite. Perché noi siamo un po' terapeutici. Dottor Franzetti, sta cordite. Assolutamente. Allora, io direi che il nostro amico ci ha azzeccato proprio nella descrizione del fatto che siamo belle, perché sicuramente quello non c'è dubbio. Pensavo poi continuasse anche lei, scusi, non avevo capito voleva andare a parare. Allora, la cordite. La cordite vuol dire tutto, vuol dire niente, vuol dire uno stato infiammatorio delle corde vocali. Ma quello che lui ha descritto è proprio il problema. Cioè lui usa la voce in maniera continuativa per comunicare dal punto di vista professionale. E questo lo costringe a quello che i francesi chiamano un surmenage, cioè un utilizzo eccessivo di sfregamento delle corde vocali. Le corde vocali, quando noi respiriamo, sono aperte. Quando noi parliamo, vibrano e si toccano. Se sfregano troppo violentemente o troppo, diciamo, energicamente, cosa succede? Che si sviluppa una cordite, cioè un'infiammazione delle corde. Queste tendono a gonfiarsi e tendono praticamente a distanziarsi. Quindi noi, siccome vogliamo continuare a parlare uguale, cosa facciamo? Aumentiamo la tensione della muscolatura del collo e quindi forziamo e continuiamo a sfregarle più forte. E quindi loro cosa fanno? Si gonfiano ancora di più. Quindi diventiamo disfonici, cioè le allontaniamo, la nostra voce diventa diversa, meno squillante, ma soprattutto si affatica molto di più. Nell'arco della giornata questa situazione si traduce in una cronicizzazione di questa situazione infiammatoria. Che fare? Allora, parlare, Davis deve parlare, certo. Naturalmente. Bisogna impostare. Idratare molto le corde vocali, questo vero? Adesso c'è partito questo trip dell'acqua, ma è una mano santa per tante situazioni. Altro che. Ecco, sicuramente. Quindi idratarle. E umidificarle. E quindi le due vie sono l'umidificazione per via transorale, magari con delle inalazioni su fumigio o cose del genere. Ad esempio anche con l'acqua termale? L'acqua termale va benissimo, le cose caldo-umide vanno benissimo, in questi casi non va bene fare gli aerosol perché seccano. Ecco. Per esempio. E l'idratazione dell'organismo. Ma la cosa principale è reimpostare il modo con cui si parla. Cioè il coordinamento del diaframma, della respirazione, col modo con cui parliamo. Per esempio, spesso noi abbiamo paura che gli altri, se non parliamo troppo in fretta, oppure se gli diamo troppo spazio, non ci ascoltino più. Allora parliamo in questo modo, velocemente. Poi prendiamo fiato, non respiriamo, perché ricominciamo. E questa cosa qui distrugge le nostre corde vocali. E anche le nostre relazioni. Anche le nostre relazioni. Allora, Antonio da Genova, buongiorno. Chiamo da Genova e sono d'accordo con Davis su tutti i complimenti, quindi bravo, non li ripeto perché... Bravo Antonio, non stiamo a ripeterli perché ormai ci mandiamo la testa. Andiamo a lei. Allora, due domande, una su mia madre e una per me. Io sono stato operato a due nodulini alle corde nel 98, dopodiché mi avevano detto di fare controlli periodici, l'ho fatto comunque dopo molti anni e la cosa era tranquilla. Ho però il problema che spesso ho abbassamento di voce. Ora, parlando, sentendo l'intervento precedente, ho sentito il dottore che diceva uno dei difetti è parlare a voce alta e magari anche in fretta, cosa che faccio spesso. Per cui mi avevano anche consigliato un logopedista. Ma lei non... Ma no, ho aspettato, preso appuntamenti, ma poi chiaramente la vita certo, dice, capita a tutti. Quindi sono a questo punto. Mia madre invece si sveglia al mattino con una raucedine dovuta del muco che si ritrova in gola, questo al mattino, e fa molta fatica, continua a schiarirsi la voce fino ad avere... a volte dei colpi di tosse con anche violenti. Sì. E qualche volta non dico rischiare il soffocamento, ma la sensazione è quella. Insomma, di non è proprio un colpo di tosse irritativa. Ieri abbiamo parlato di tosse con il professor Arari e noi oggi rimaniamo in zona, no? Bocca, naso, gola. 800 24 00 24. Andiamo a sentire le notizie. Sono dei pronta. Mercati, perché è il loro momento. Il loro momento. Qua oggi vorrei non raccontare tante cose, purtroppo sono un po' rossi, un po' come la gola di qualcuno. Andiamo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio Alto Rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. È un sentimento nuovo che mi tiene alta la vita. Siamo tornati insieme, chiamateci se la vostra gola si è rossa, prude, se la vostra voce si vela, si abbassa, diventa roca, ogni tanto se ne va, se avvertite quella fastidiosa sensazione di nodo in gola o se vi sembra di fare fatica a deglutire, ma raccontateci anche il vostro peccato di gola. 800 24 00 24, insieme a noi il dottor Franzetti, pronto a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori e soprattutto alle domande dell'amico di Genova che ci chiedeva due indicazioni. Certo. Una per la sua mamma che si sveglia al mattino con questo bisogno di schiarirsi la voce, questa tosse un po' stizzosa, e anche per il suo problema perché aveva avuto dei noduli che gli sono stati asportati alle corde vocali. Tra l'altro è un problema abbastanza frequente, ma i noduli sono solitamente di natura benigna, quindi non mandiamo anche questo messaggio rassicurante. Dottor Franzetti, qua ci vuole un po' di prevenzione. Allora, i noduli sarebbe meglio toccarli il meno possibile chirurgicamente, perché guariscono con una buona logopedia. Ma c'è il problema, siamo in attesa della logopedista, diceva il nostro amico. Sì. Allora vorremmo insegnare un paio di esercizi che valgono per tutti, per cercare di coordinare la respirazione con la fonazione e il rilassamento della muscolatura del collo quando si parla. Gli esercizi. Dai, prendiamo un libro qualsiasi. E a metà pagina del libro, verticalmente, facciamo una bella riga con una matita. Noi iniziamo a leggere, prendiamo un bel fiatone respirando e riempiendo tutti i polmoni e iniziamo a leggere lentamente la riga. Quando arriviamo a metà della riga abbiamo ancora molto fiato, sì, perché normalmente leggiamo almeno una riga e mezza con una presa di fiato noi. Quando arriviamo a metà ci fermiamo, a prescindere dalla punteggiatura, e buttiamo fuori tutto, riprendiamo tutto e leggiamo fino alla fine della riga, dopodiché abbiamo ancora tanto fiato ma buttiamo fuori tutto e poi riprendiamo fiato e leggiamo così senza gridare e respirando ritmicamente in questo modo per mezza paginetta tutti i giorni. In questo modo sicuramente ci costringeremo a coordinare in qualche modo il movimento diaframmatico con il controllo delle corde vocali. Secondo esercizio è quello che fanno nei corsi preparto. Dai. Ci si sdraia sul pavimento con le gambe leggermente flesse, si prende un bel libro un pochettino pesante tipo un'enciclopedia, sì, la si mette sulla pancia, sì, e si fanno degli esercizi di inspirazione e quando l'aria va dentro il libro deve salire, si spinge in su con la pancia. Quando l'aria va fuori, la pancia deve andare in dentro, quindi ci si obbliga a un movimento che non è naturale quando noi respiriamo, ma che ci obbliga a imparare a coordinare il movimento del diaframma e la muscolatura respiratoria. Cioè, le mamme durante il corso preparto fanno l'esercizio con il tomone sulla pancia sul bambino in questo modo? No, lo fanno senza il libro, però con il libro si cerca di diciamo accentuare dal punto di vista diciamo così logopedico l'atto respiratorio del diaframma rispetto alla muscolatura respiratoria. Allora, le indicazioni le avete? La pancia, il diaframma, potete... I libri ve li mettiamo noi, come con il nostro domandone di oggi. Il dottor Franzetti viene proprio apposta per farci i domandoni. Quasi solo per quello. Le piace un sacco. Allora, dottor Franzetti, anche ci toglie no, dall'impegno di studiarne uno. Ecco. Allora, dottor Franzetti, che domandone ci propone allora, oggi? Allora, oggi facciamo il domandone del primo aprile. Allora, c'è una zona della bocca, cavo orale, laringe, faringe. Insomma, tutto quelli intorno al trilocale. Che si chiama zona delle 17 pliche. Pliche vuol dire pieghe. Sì. Dove si trova questa zona? Sono, risposta numero 1, 17 zone della tonsilla. Risposta numero 2, 17 zone della lingua. Risposta numero 3, 17 zone della faringe. Quindi ripeto, numero 1 tonsilla, numero 2 lingua, numero 3 faringe. 800 24 00 24 per rispondere al domandone del dottor Franzetti. Dottor Franzetti, Hitchcock suggeriva un rimedio molto drastico per il mal di gola, che è la lama, no? Ma per molto tempo mal di gola ricorrenti davano indicazione per, lei l'ha citato nel domandone, l'asportazione chirurgica delle tonsille. Oggi invece si interviene in casi strettamente circostanziati. Quindi le tonsille sono salve, per fortuna, perché non sono degli optional. A qualcosa servono, si sono messe lì, sono un po' le sentinelle della nostra gola. Le tonsille sono un organo di difesa, in modo particolare verso le malattie virali. Ma chi non ce le ha più? Importantissimo. E chi non ce l'ha più a volte può sviluppare anche dei disturbi di faringite cronica o di laringite cronica o anche di patologie croniche di tipo virale che purtroppo danno fastidio a distanza di anni da quando uno le aveva tolte. Ci sono dei criteri assoluti in cui invece è indispensabile toglierlo, perché le tonsille possono comunque diventare dei focolai infettivi e sviluppare anche delle patologie sistemiche come delle patologie reumatiche. E quindi ci sono proprio dei criteri per cui oggi si tolgono, ma sono molto molto ristretti. Diverso invece è quando noi abbiamo, soprattutto nei bambini o nei ragazzi, i cosiddetti bambini che respirano a bocca aperta perché hanno le tonsillone grosse. Oh mamma mia che brutte tonsille, perché sono grosse. In questi casi si può arrivare alla riduzione delle tonsille, non all'asportazione della tonsille, con mezzi tipo i laser, le radiofrequenze, ma lasciando in sede buona parte della tonsilla, e questo permette alla tonsilla di sviluppare comunque i suoi meccanismi di difesa, di fare il suo lavoro, ma di non essere più di ingombro. Dottor Franzetti, ma di solito sempre un tempo si eliminavano tonsille e adenoidi, la coppiata, tanto che va... A me è successo, per esempio. Deborah senza tonsille. Esatto. Perché una volta era il problema, soprattutto nei bambini, era un problema di ostruzione respiratoria, e quando uno aveva le adenoidi gonfie, normalmente aveva anche le tonsille grosse. Però il problema oggi è, ma queste tonsille si ammalano o non si ammalano, oltre a ingombrare? Perché altrimenti si possono togliere le adenoidi e ridurre le tonsille senza toglierle totalmente, cose che le tecniche di oggi ci permettono di fare. Allora, la zona delle 17 pliche ha attivato i nostri ascoltatori, arrivano già molte risposte per questo domandone da primo di aprile, Deborah. Andiamo ai nostri ascoltatori intanto, perché poi voglio parlarvi della giornata che ha dato spunto alla trasmissione di oggi, proprio per restare nell'attualità, ed è una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale. Ne parleremo tra poco, ci sono anche degli screening a cui si può partecipare, ma vi racconteremo tutto dopo le informazioni sul traffico. Intanto abbiamo Rosalba, Riccardo e Massimo. Partiamo da Rosalba. Buongiorno, ci chiama da Lucca. Buongiorno, buongiorno. E complimenti per la trasmissione ancora. Grazie Rosalba. Io ho chiamato perché mi ha incuriosito questo test della voce di cui avete parlato, in quanto con mio marito negli ultimi tempi spesso sembra che non ci capiamo. Mio marito continua a dire che la colpa è mia perché ho la voce bassa e io credo invece che abbia lui sia un po' problema di udito. Allora, appunto, io sto dalla sua parte, Rosalba. Mi ha incuriosito perché ho detto magari sentendola una persona esperta capisce se effettivamente la mia voce ha problemi o il problema è di mio marito. Grazie. Grazie Rosalba. Allora, Rosalba, ha ragione Rosalba, ha ragione il marito. Allora, i mariti ormai diciamo si tengono un po' come le consigli. Statisticamente è più facile che senta poco il marito rispetto alla voce bassa della moglie. Però un consiglio, oltre che a fare un esame audiometrico al marito, se consenziente, è quello che se il marito desidera sentire la moglie e la moglie desidera farsi sentire dal marito, potrebbe anche alzare la voce. Certo, ma Rosalba, dalla voce di Rosalba, lei ha avvertito un abbassamento di voce, no, che potrebbe tradire una sofferenza? Senta, non mi sembrava. Senti, una tradire una sofferenza? No. Questa mattina è veramente vivace quella allora, situazione. Allora, è la camicia e rossetto. La camicia e rossetto, che lo sapevo già notato. Che lì voleva arrivare, ci è arrivato. Cosa facciamo? Andiamo a Torino? Sì, direi che ancora qualche minuto di tempo ai nostri ascoltatori glielo possiamo dedicare prima del traffico. Abbiamo da Torino Riccardo, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ottimo, grazie. Senta, io è un mese che vado avanti, che mi fa male la gola, ma non cioè, è iniziato con un bruciore. E invece adesso mi fa male nel deglutire. Tra l'altro io prendo il Warfarin, non so se questo può avere una correlazione. Ho smesso di fumare già da 4 anni. Bravissimo. Ero intervenuto in una trasmissione riguardo la sigaretta elettronica, non so se si ricorda Nicoletta. Sì, può darsi, ma mi ricordo la puntata sulla sigaretta elettronica, Riccardo. Sì. E avevo smesso appunto di fumare da 4 anni e sto facendo uso di questa sigaretta. Non so se può dipendere da quello o può dipendere... comunque mi fa male nel deglutire. Nel deglutire, che il fastidio alla deglutizione ci mette sempre un po' in crisi, perché insomma deglutire poi dobbiamo. Dottor Franzetti, prima è una risposta lunga o è mirata, veloce? No, facciamo velocissimo, cioè in questi casi bisogna per forza fare un esame con le fibre ottiche per valutare la situazione della laringe, perché può essere una cosa che dipende da un problema di reflusso gastroesofageo oppure può essere un problema che sia infiammatorio a livello dell'ipofaringe laringe, quindi è dirimente questo esame. La sigaretta elettronica secondo lei non ha nessuna relazione, potrebbe avere particolare sensibilità? Se non c'è la presenza di un reflusso gastroesofageo potrebbe essere un'irritazione laringea da sigaretta. Sì. Allora Valeria ci scrive: perché non dite qualcosa sulle adenoidi? Sì, abbiamo l'otorino apposta e l'abbiamo invitato qua. Ma invece qua. Posso chiedere, sì, il traffico ora di darlo, l'esame con le fibre ottiche come si fa per la gola? L'esame con le fibre ottiche per la gola si può fare con un tubicino della dimensione di 2 mm, si passa da una delle fosse nasali, di solito quella più libera, in modo da non dare il riflesso del vomito, e dall'alto delle fosse nasali si guarda con una piccola telecamera il movimento, la situazione. Lo immaginavo più simile ad una radiografia, mi sono tolta anche questa curiosità e direi che non vorrei farlo questo esame. L'ho fatto, ma non è fastidioso. Non si sente nulla. Allora, fatevi sentire voi invece all'800 24 00 24. Tra poco parliamo anche del tumore del cavo orale e del tumore dell'orofaringe in cui è implicata l'infezione da papillomavirus. Tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme. Oggi ci occupiamo della nostra gola e del benessere della salute della cavità orale. Insieme al dottor Franzetti abbiamo parlato di tonsille, abbiamo parlato di adenoidi, appena accennato, ne torneremo se il tempo ce lo permetterà, della famosa zona delle 17 pliche. su cui verte appunto il domandone di oggi, 800 24 00 24, il domandone del primo aprile. E ci ha raggiunto anche il dottor Domenico Cuda, il professor Domenico Cuda, presidente dell'associazione Otorinolaringologia, oppure Otorinolaringology, com'è dottor professor Cuda? Uguale. Gli otorinolaringoiatria. Ok, e direttore dell'unità operativa all'ospedale di Piacenza. Professor Cuda, reduce del grande successo dell'anno scorso, torna la giornata della prevenzione dedicata alla diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. È un tumore che viene intercettato tardivamente, anche se non richiede esami invasivi per essere diagnosticato. In questo caso l'informazione, come sempre, è fondamentale, direi che è il primo passo della prevenzione. Dottor Cuda, professor Buongiorno, Cuda. Buongiorno a tutti. Prevenzione è più facile che dire otorinolaringoiatra, abbiamo avuto una dimostrazione poco fa, infatti, e questo è lo slogan della giornata. In questo momento praticamente in tutti i reparti ospedalieri di otorinolaringoiatria italiani, sono oltre 170, si stanno svolgendo degli screening per questa patologia, quindi riceviamo i pazienti, esaminiamo il proprio cavo orale, discutiamo dei fattori di rischio che eventualmente presentano queste persone, e quindi facciamo anche un'operazione di educazione sanitaria sulle persone, certo, quando anche avessero una situazione normale. Parliamo dei fattori di rischio di questo tumore. I fattori di rischio, il più comune è certamente il fumo incide nella stragrande maggioranza dei casi, specie quando poi al fumo si associ l'alcol, ecco, gli effetti si sommano. Sì, c'è una sorta di effetto moltiplicatore, sì. Ecco, non è uno più uno fa due, ma probabilmente fa più di due, quindi c'è una sinergia fra i due fattori di rischio. Poi vi è naturalmente l'età avanzata, è un tumore questo che è tipico della fascia di età dai 60 anni in su, anche se non sono eccezionali prima di questa fascia di età, l'esposizione al sole, questo limitatamente però al tumore delle labbra che fanno parte anch'esse del cavo orale. Ecco, poi c'è l'irritazione della mucosa del cavo orale da protesi, da cattiva gestione. Anche la cattiva igiene orale. Quindi quali sono gli aspetti che dobbiamo tenere sotto controllo? Ci sono delle lesioni, ne avevamo anticipato in una puntata nelle scorse settimane quando parlavamo proprio della mucosa che riveste l'interno della nostra bocca. Lesioni che tardano a guarire? È una tappezzeria che va esaminata con regolarità, specie se si hanno fattori di rischio, quindi ogni ulcerazione, cioè ogni interruzione di questa tappezzeria, ogni escrescenza o, ecco questo è molto importante, ogni lesione, ogni alterazione del colore, cioè delle macchie bianche o piuttosto che rosse ben localizzate che durano più di 15 giorni assolutamente devono essere prese in considerazione, specie da chi ha fattori di rischio. Professor Cuda, si registra anche un aumento dei tumori dell'orofaringe e tra le cause c'è l'infezione del papilloma virus. Ecco, questo è un problema emergente per le neoplasie appunto della testa e del collo, il sesso orale è certamente il fattore di rischio principale. L'infezione da papillomavirus naturalmente non significa poi progressione verso il tumore, però è certamente un fattore associato all'evoluzione tumorale. Devo dire che per il cavo orale ancora siamo probabilmente agli albori, mentre invece rappresenta di più un fattore di rischio per la faringe, quindi per la zona che va praticamente dalle tonsille in giù. Ecco. Professor viene Cuda. Viene raccomandato naturalmente la sensibilizzazione su questo tema, la vaccinazione, perché i ceppi più frequentemente implicati sono il sierotipo 16, quindi quelli in pratica già implicati nel caso del tumore del collo dell'utero. Quindi la vaccinazione probabilmente potrà avere effetti protettivi, ma soprattutto tanta attenzione e tanta protezione rispetto a questo problema. Grazie professor Cuda per essere stato con noi, buona giornata allora e buona prevenzione. Grazie a voi. Allora andiamo a Massimo da Roma. Allora, queste tonsille danno molti problemi perché anche ci sono ascoltatori che ci scrivono: ho le tonsille, ma sono tutte bucherellate, si infiammano. E non sono solamente i bambini ad avere problemi con le tonsille, ma possono continuare a darcelo anche quando siamo grandi. Massimo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Lei le tonsille ce le ha? Del servizio che ci offrite ogni giorno. Grazie Massimo. Lei le ha conservate? È un problema praticamente che, come ho sentito che dico adesso, le ho tutte bucherellate. E puntualmente si riempono sempre di delle cose bianche, che anche a mio figlio praticamente capita questa cosa. Le si tolgono con degli stecchi che usano gli otorini, però puntualmente poi ritornano. Vorrei sapere se è una cosa che sì, è da controllare, da, certo, da analizzare. Allora, tonsille a scolapasta, insomma, con i buchi, che cosa si fa? Sì, prima di rispondere, se è possibile, volevo fare una sottolineatura sull'intervento di Cuda, perché è importantissimo per noi questa giornata che stiamo facendo, e volevo sottolineare che si può accedere durante tutta la giornata a tutti i centri che ha detto dottor Cuda gratuitamente, senza appuntamento, perché questa cosa qui va detta, non era stata un po' tralasciata. Sì, perché le giornate dove ci sono sono previsti gli screening, devo dire, dottor Franzetti, che noi le segnaliamo, però poi abbiamo sempre gli ascoltatori che magari intercettano quella che ha terminato il servizio, oppure trovano coda, o magari trovano un medico che a loro non piace molto, e allora poi diventa sempre un po'... Allora, ci sono questi screening, come aveva detto il dottor, il professor Cuda, e c'è un sito che, lo ricordiamo, è Giornata della Prevenzione, mi sembra, a cui potete riferirvi per cercare il posto più vicino a voi. Perfetto. Quindi rispondiamo. Allora, intanto, quando ci sono queste placchette bianche granulose delle tonsille, non sono placche per cui prendere l'antibiotico, prima cosa. Sì. Seconda cosa, si possono schiacciare e far uscire perché sono sgradevoli, sia come odore che come anche sensazione da avere in bocca. Terza cosa, è possibile curarle facendo una migliore igiene del cavo orale, cure di tipo termale, fino ad arrivare in alcuni casi a fare quella che ho detto prima, la tonsillotomia riduttiva, cioè ridurre con dei laser queste cripte. Allora, adenoidi, grande capitolo che affronteremo magari in un'altra occasione, perché vogliamo dare, no, la stessa dignità alle adenoidi di quanto abbiamo dato alle tonsille, anche perché c'è il nostro domandone del 1 aprile che ha scatenato i nostri ascoltatori. Le 17 pliche in questa zona, a che cosa corrisponde? Alla lingua, alle tonsille o alla faringe? Sinteticamente, Federico da Brescia ha la risposta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Secondo me alla faringe, le 17 zone. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Vi seguo quando posso. Sì, Federico, quindi per lei è il faringe. Sì. La o il? Dipende dai testi. Sì, dipende dai testi. E comunque, devo dire che siamo stati un po' cattivi, perché avendo detto che è il quizzettone del 1 aprile, abbiamo fatto un pesce d'aprile, perché la zona delle 17 pliche non esiste, ma esiste una zona che si chiama zona delle 3 pliche, che è proprio nella zona dell'ipofaringe, quindi direi che ci è andato vicino. Adesso lei regala 50 libri a tutti i nostri ascoltatori che sono caduti nel pesce d'aprile. È vero, ecco. Allora, grazie a Federico che si è avvicinato alla risposta, ma è stato anche soprattutto il primo. Abbiamo dato, esatto, no, proprio voce al primo ascoltatore che ha chiamato il nostro numero verde 800 24 00 24, un numero da imparare a memoria. Altro che, ma lo sanno allora, gli ascoltatori, lo comporranno anche lunedì prossimo. Vi quando aspettiamo. Torneremo. Alle 10:30, dottor Franzetti, grazie, buon 1° aprile a tutti. Grazie a voi, arrivederci.